E in esclusiva su Radio Wombat vi state ascoltando il soundcheck di Cesare Basile, che tra qualche minuto inizierà il suo live. Allora, eccoci qua, si va avanti con questo festival della letteratura sociale. Abbiamo adesso Cesare Basile e insomma siamo particolarmente abituati a sentire qua almeno. E niente, eccovelo qua Cesare. E io volevo cominciare con una domandina, ecco, diciamo generale e non sempre facile comunque, essendo tu un cantautore, insomma, volevo chiederti qual è, cioè com'è che inizialmente com'è che hai iniziato a scrivere pezzi e qual è stata, diciamo, la prima esigenza che ti ha portato poi a scrivere, ecco, insomma, perché l'inizio proprio. Beh, io direi per salvarmi il culo, almeno ai tempi si suonava per salvarsi il culo quando ho cominciato a suonare io. E, oggi probabilmente le motivazioni sono diverse, no? Io fondamentalmente ho cominciato facendo la rock and roll, facendo il punk, seguendo un po' quell'esigenza che era un'esigenza anche generazionale, di, come dire, di reagire. C'è sempre questa frase a cui penso spesso, che è una frase di Henry Rollins, no? Che diceva: io non sono un artista, sono una reazione alla vita. Ecco, probabilmente ai miei tempi, quando avevo 20 anni, cominciare a suonare era in qualche modo reagire alla vita. E, può sembrare una cosa molto, no, arrogante quasi, però per noi ai tempi non era arrogante, ma in effetti anche occupare un posto può sembrare arrogante, però anche occupare un posto è reagire alla vita. E per cui probabilmente, visto che poi a 50 anni sono finito a occupare posti, probabilmente il discorso è sempre quello, reagire alle cose. Oh, ci dicevi, insomma, bella risposta, ci dicevi occupare posti e tutto quanto. Noi sappiamo di questa realtà del Teatro Coppola e niente, se ci volevi parlare un attimino di questa esperienza, di cosa vuol dire, anche, non lo so, eventualmente di collegamenti e, non lo so, altre esperienze che conosci e che sono magari in collegamento con il Teatro Coppola, se, insomma, come operate, cos'è, come ce lo dobbiamo immaginare questo Teatro Coppola? Ma il Teatro Coppola nasce come occupazione un po' sull'onda generata dal Teatro Valle a Roma già 6 anni fa. A Catania c'era già un gruppo di artisti che in qualche maniera avevano cominciato a parlare fra di loro e a sentire l'esigenza di, come dire, di liberarsi anche, no, dell'appartenenza alla categoria artisti e riportare un po' l'arte anche al centro della vita della città, come dire, anche come stimolo politico. L'occupazione del Teatro Valle un attimino ci aveva preso di sorpresa un po' tutti e ci aveva anche ispirato, per cui abbiamo cominciato a guardarci intorno in città e abbiamo individuato questo spazio che era appunto i resti fondamentalmente del primo teatro comunale di Catania, fondato nel 1820, poi abbandonato, distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale da un bombardamento, oggetto di speculazioni, insomma un cesso era, non era più nulla. E allora abbiamo detto: perché no? Perché non entrare? E fondamentalmente siamo entrati senza un programma, siamo entrati senza un'idea, siamo entrati senza una struttura, e fortunatamente una struttura non ce l'abbiamo neanche oggi, perché abbiamo sempre ritenuto che la struttura fosse sinonimo autoritario e sinonimo di autorità, per cui la struttura ci ha fatto sempre un po' paura e l'abbiamo evitata. Non essendo ideologizzati, essendo tendenzialmente quasi tutti di estrazione libertaria, abbiamo provato a farci ispirare dall'esperienza, no? Giorno per giorno, mettendo in discussione continuamente le cose, anche quelle decise il giorno prima, eravamo e siamo ancora oggi in condizioni di cambiarle, non le prendiamo mai come oro colato. L'assemblea è una bella assemblea, è fatta di tanta gente. Fortunatamente, dopo 6 anni di occupazione, abbiamo avuto un cambio, per cui quelli di noi che sono un po' più vecchietti, sia anagraficamente che sia anche come partecipanti all'esperienza, possono prendere aria e respirare, perché in effetti occupare un posto è stancante, è difficile, è dura, ma insomma lo dico a voi, ma penso che lo sapete abbastanza bene. Però diciamo una grossa soddisfazione, perché l'occupazione di un posto non è altro che sottrarre spazi di libertà, sottrarre spazi di libertà al potere, che altrimenti sarebbero occupati dal potere. Quello è il senso della cosa, no? Poi la durata, quello che riesce a fare, può cambiare, può non, come dire, non ottenere i risultati sperati, però il vero risultato è quello di avere sottratto uno spazio. E in qualche maniera, sottraendo uno spazio, hai sottratto anche delle vite a quella che è l'organizzazione del potere. E questa è la cosa per noi più importante al Teatro Coppola. Altra realtà, diciamo che sull'onda dell'occupazione del Valle erano state diverse le occupazioni nate un po' in diverse parti d'Italia. Gran parte di queste occupazioni purtroppo sono finite. Non so perché. E non mi interessa neanche saperlo, non è una cosa che mi riguardi. In Sicilia ne abbiamo avute praticamente tre, perché c'è stato il Teatro Coppola, c'è stato il Garibaldi a Palermo e c'è stato il Pinelli a Messina. Il Garibaldi e il Pinelli hanno chiuso, però poi a Palermo hanno rioccupato alla Fiera del Mediterraneo, adesso c'è il TMO che un po' ha raccolto l'eredità di quelle esperienze. E un altro posto che secondo me è molto importante, mi piace ricordarlo qui stasera perché è sotto sgombero adesso, è un posto di Sassari che si chiama, anzi di Porto Torres per la precisione, si chiama Pangea. Anche quello è un posto di ispirazione libertaria e anarchica, e proprio il 24 di questo mese avrà uno sgombero, dovranno lasciare lo spazio, ma hanno lavorato molto bene in questi anni, hanno creato, come dire, non vorrei dire collettivo perché non è questo quello che hanno fatto, hanno creato una discussione in un paese come Porto Torres, che è un paese massacrato da un petrolchimico che tramite il ricatto del lavoro, come spesso accade, ha schiavizzato almeno 2 se non 3 generazioni di abitanti, per poi lasciarli nella merda, chiudere gli stabilimenti e lasciare soltanto inquinamento e devastazione. E questi ragazzi invece a Porto Torres sono riusciti proprio a lavorare su questo, a lavorare sulle rovine lasciate dal petrolchimico, e probabilmente questo è uno dei motivi per cui adesso vengono sgombrati. E poi volevo fare una domanda per quanto riguarda la lingua, ecco, insomma, io so che, insomma, canti, soprattutto ultimamente, insomma, hai l'abitudine di cantare in lingua siciliana, e, cioè, insomma, insomma, ti sei abituato, l'ho detta un po' così. Insomma, è una cosa molto importante, insomma, molti cantautori hanno portato avanti canzoni in lingue locali, in dialetto e tutto quanto. E, boh, almeno personalmente la canzone in dialetto mi emoziona sempre molto, anche se non ne colgo il significato ultimo, poi se non è nel mio, e poi alla fine, insomma, fiorentino, toscano, c'è poco da dialettare, insomma. Però quando sento una canzone in dialetto, insomma, emotivamente coinvolge comunque, almeno a mio avviso. Non so perché hai scelto di scrivere in dialetto e non so com'è che è andata questa scelta, ma insomma vorrei che tu ce la dicessi se possibile. Ma la cosa più semplice, la prima cosa che mi viene in mente da dire è che, avendo cercato di fare del blues per tutta una vita e non essendo negro, e lo dico con tutta la bellezza di questo termine, cioè, perdonatemi se vi sembra scorretto, ma nella mia testa non è scorretto, non avendo per cui quelle qualità, dovevo trovare qualche cosa a cui aggrapparmi per avere quel tipo di ispirazione e quel tipo di attitudine. Penso che le lingue dell'infanzia abbiano quell'attitudine. Il siciliano per me è la lingua dell'infanzia, è la lingua che per prima mi ha in qualche maniera presentato il mondo, è forse la cosa più antica che c'è nella mia memoria, per cui è quanto di più ancestrale io ho nel mio ricordo. Ed è una lingua che mi dà quel ritmo, che mi dà quelle cadenze, che mi dà soprattutto quell'immaginario, spesso irrazionale, che però è servita a raccontare persone che altrimenti non sarebbero state raccontate da nessuno, che è un po' quello che ha fatto il blues, quantomeno il blues delle origini. E, allora, proseguirei un attimino. In particolare mi piacerebbe, non so se ho visto, insomma, ho trovato che hai avuto molte collaborazioni, hai conosciuto molti altri artisti, insomma, di grande fama, e non so se c'è qualche aneddoto, qualche cosa divertente, qualche cosa che ti è successa, un qualcosa da raccontarci che poter... No, vabbè. Ok, bene. Risparmio e me li risparmio. Ok, benissimo. E niente, non lo so, poi dovrei farti una domanda, insomma, rivolta, insomma, per chi adesso vuole cercare di fare musica, cercare di portare qualcosa di nuovo a livello musicale. Siamo, insomma, in un'epoca in cui insomma, tutti i mezzi di comunicazione stanno cambiando, stanno cambiando proprio le possibilità di fare musica. E non so, volevo chiederti un po', Cesare Basile nel 2017, cosa ne pensa, insomma, di come si sta sviluppando la musica, e non so se vuoi dare un qualche consiglio, non lo so, a qualcuno che possa voler seguire la tua strada nella musica e nella parola italiana, ecco. Ma io non lo so, come, cioè, la domanda verrebbe a me da fare questa domanda: come si sta sviluppando la musica, oppure si sta sviluppando la musica, oppure quello di cui stiamo parlando cos'è? È tutto talmente strano, confuso, aleatorio. I ragazzini che cominciano a suonare non si capisce perché lo fanno, dove vogliono arrivare, se per guadagnare un talent oppure per diventare famosi. Io credo che la domanda è sempre la stessa: hai qualcosa da dire? Cioè, se hai qualcosa da dire, dilla, no? E questa è la prima cosa che dovrebbe chiedersi un ragazzo che comincia a suonare. Una volta chiarito questo punto sull'avere qualcosa da dire, poi si entra nel campo della... è come fare un patto, no? Io ultimamente dico spesso che ho responsabilità solo nei confronti della mia musica, e devo rispettare la mia musica perché è quella che ho scelto come compagna. Ho instaurato un patto di fiducia con la musica, e se non la rispetto, la musica non rispetterà me. E questa è la cosa importante: non c'è più un patto fra i musicisti o presunti tali e la musica. Il patto è fra chi cerca un lavoro, cosa che mi fa vomitare. Io non credo che suonare sia un lavoro, non me ne voglia nessuno. Suonare è una scelta, suonare è un'assunzione di responsabilità, e bisogna essere fedeli a questa assunzione di responsabilità. Poi per il resto consigli, io sono l'ultima persona al mondo a poterne dare. Mi piace molto come risposta a chi chiede consigli, questa sempre. E, volevo fare una domanda, insomma, per quanto riguarda... Allora, intanto siamo molto contenti che tu sia qui, ed ecco, credo che sia... un atto politico anche soltanto il fatto di venire a suonare qua in questo contesto con queste persone per questo evento. Però volevo chiederti una cosa riguardante il tuo passato e in particolare il premio Tenco, e chiederti un po', insomma, com'è che è andato quell'episodio, insomma, è meglio se ce lo racconti te, insomma, di questa scelta, ecco, insomma. Ma tu dici il fatto che io abbia rifiutato un premio Tenco? Ma è successo per una questione molto semplice, cioè io faccio parte dell'assemblea di un teatro occupato. Gino Paoli, che era allora presidente della SIAE, ci aveva accusato in quanto occupanti di teatri di essere dei ladri e di rubare appunto il lavoro ai nostri colleghi. Cos'è successo? Che il Tenco avrebbe dovuto fare una serata al Teatro Valle, una sorta di anteprima della premiazione. Essendo la SIAE il principale sponsor economico del premio Tenco, la SIAE fondamentalmente ha messo un divieto e quelli del Tenco si sono tirati indietro e hanno cancellato appunto il concerto. Chiaramente, per una questione di coerenza, non voglio neanche qui farmene un vanto, no? Ma mi sembrava logico che se la SIAE prende una posizione nei confronti di me come occupante, e soprattutto se la SIAE impone al premio Tenco di cancellare una manifestazione in un teatro occupato, io non ritiro il premio, è molto semplice, cioè non mi interessa, non voglio avere a che fare con una roba che non è capace di rivendicare autonomia rispetto a un potere economico che gli permette di esistere. Questo è stato una cosa molto semplice. E ti volevo fare un'ultima domandissima, poi se qualcuno ha qualche domanda in particolare, riguardante il tuo ultimo disco, che onestamente non so nemmeno leggere bene io, magari forse è meglio se ce lo presenti te proprio, prima di fare figure di merda toscano-siciliana, no? Ufuyuto su Nesci che fa? No. Questo lo dovresti dire tu. Quando esce Ufuyuto, cioè Ufuyuto nei tarocchi siciliani è l'equivalente del matto, no? E il matto chiaramente quando esce spariglia un pochettino la situazione. Poi sta a te che estrai la carta a capire cosa farne di quel matto. Lo puoi rimettere nel mazzo e fregartene e tenerti la vita di merda che fai, oppure metterla in discussione. Benissimo. C'è qualcuno che ha qualcosa da chiedere, cose? Nulla. Allora nulla, direi che si incomincia. Sad. Stefano, alle pensate, a pensone pensate, notte e giorno le patrona, a pensone pensate, notte e giorno le patrona. Se a sé pensate, quanto pensate, che grande quantità te, e pensate a ne patrona. Essa pensata fece gran pensata le patrona, essa pensata fece gran pensata le patrona. Caccia volere bene alle pensate le patrona. E sonnetene alle azzate, sale ad ora, doccia volere bene pensate e patrona, doccia volere bene alle pensate e patrona. C'è una cosa affascinante nella cultura popolare, non solo diciamo quella legata alle canzoni, ma anche quella legata alla medicina piuttosto che alla magia, è che le cose, gli avvenimenti, i fenomeni atmosferici piuttosto che la malattia, no? In virtù di un ragionamento magico, irrazionale, chiamatelo come volete, potevano diventare concrete, per cui potevano essere maneggiate, trasformate, sì. Si poteva per cui reagire alle cose realmente, no? Fisicamente, con le proprie mani. Una figura che mi ha sempre affascinato è quella della tromba d'aria. L'antica credenza popolare voleva che la tromba d'aria potesse essere tagliata con un coltello, e per cui in questo modo veniva messa in condizioni di non nuocere. E c'erano proprio delle formule per fare questo. La tromba d'aria veniva chiamata Jaunara, la coda del drago. La coda del drago si poteva tagliare con il coltello e si poteva cambiare il corso della coda del drago. Pensare lo pace. lo fecchio. Pensare lo Spirito Santo, se vuoi l'attacchiare a ciauna. Che rida chiotti e marinara a te non le vesti.

va va va va va va. Essere se a fuoco, fuoco di casce, fuoco di trusce, fuoco capariocco. Con l'essere se a fuoco menziono, fallo cericio a te, ma non sei buono manco a sbambare, fallo covardi a riri, con l'essere s'affoga, menziono, va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Se l'arso cane e se portasse vatti e patrone, venisse riste mano, o la sera s'affoga menziono, e l'arso cane arriva scasarrerenno le lo cantere spunta tra casci e trusci. Essere s'affoga menziono, vai va va va vai va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Se fece fuoco, se non poteva fare se inferno cola, se fece fuoco, cola se resa fuoco, menziono, cola se fece fuoco, se non poteva fare se inferno cola, se fece fuoco. Essere s'affoga menziono, va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Grazie. Questa si intitola Canzone addinocchiata, che vuol dire canzone in ginocchio, inginocchiata. Il testo l'ho scritto insieme a una cara amica siciliana che ha vissuto per tanti anni a Bologna, ora si è trasferita a Torino. Lei si chiama Dina Basso. L'idea in effetti per la storia è stata sua. Voleva raccontare la vita di questa donna, Alfia, siciliana trasferita anch'essa tanto tempo a Bologna, che appunto le raccontava di aver passato tutta la vita in ginocchio per un motivo o per un altro, per il lavoro o per sopraffazioni, e di essere arrivata a pensare che il giorno e l'avrebbero messa nella tomba. Sarebbe stata scomoda, distesa, perché era la prima volta in cui non si sarebbe trovata in ginocchio. E allora volevo essere sepolta in ginocchio. Canzone addinocchiata. Mozzare me mace me la sa, scavata lo peccato a me cari, manco vatti un cipote ma restau, a purpa che ha portato sopra spatti, anco nicchiata sotto la corrida. A pedre malliscia una tumbula, Santa Maria sa va scordati mia, sotto patetti ci cerca le ma lo misterio è stato alla vannara e dire no che ce la sai e peggi e ma non sanno a Roma finio la guerra e s'accapò l'amore ho freddo ere ho freddo sopportavo io mancicavo in terra per pregare ma a mezza a neve la dopo vent'anni ancora di nocchioni da parre cogliere frastuchi calavo sulle io non m'addezzava o armolo camperi mi voleva caro bene era già sa morte in casa Santa Maria sa reordare mia con orto fumo ma si ciaurusa non lasso niente e nudo stella nia entro da puro scuro non ho appetto non ho piacere a stare stinnicchiata e la prima volta come la va a dire la dementa fosse attenucchiata e la prima volta come la va a dire che la dementa fosse attenucchiata. Anticamente chi nasceva cieco, essendo inadatto al lavoro, veniva indirizzato al canto e alla narrazione. I ciechi in Sicilia erano i cantori, inizialmente legati alle confraternite religiose, poi in qualche modo anche seguendo strade autonome. Forse il fatto di non vedere li metteva in una relazione diretta con la narrazione e con le parole, o forse semplicemente non potevano fare altro, per cui gli si trovava una funzione. Questa canzone si intitola L'Orvo. L'Orvo è il cieco. L'Orvi erano i ciechi, sono i ciechi. Parla di uno che si fa cieco, si acceca volontariamente per arrivare al cuore delle parole. Che parla e poi che parla a fare, casemo insieme mannere e battiane, ma vai cercando un cuore di parole e sento solo sgruscio di cianciani. Mi fece orbo per contare e la voce era sprezzata ognuno ognuno, chiacchiere recogliamo e non parole, che di sti chiacchiere siamo pazzoni. Da villa st'anima porrita, basta della nuova stale marra, scriveteci un nome pulita, che non sanno le paci e manchi verra. Cercando un cuore di parole e sento solo sgruscio di cianciani, chiacchiere arricchiamo e non parole, che di sti chiacchiere siamo pazzoni. Chiacchiere con chi è, ma non parole, che di sti chiacchiere siamo pazzoni. Chiacchiere raccogliamo e non parole, perché di queste chiacchiere siamo padroni. Questo dice la fine della canzone. Faccio una canzone in italiano. Canzone ispirata dalle poesie di Caterina Guogu. Caterina Guogu è stata attrice, poetessa, militante anarchica greca, morta suicida nel 2000, se non sbaglio. Ha scritto delle cose pregevolissime, oltre ad aver avuto una vita importante ed essere stata una testimonianza importante per le cose in cui credeva. Parangelia. Che il trucco scorre piano, sul fondo del mio volto, con il muco e il pianto, il sole dentro al brandy, dove non c'è il mare. Guarda con calma le mie unghie, i miei capelli e gli anni che sono sporchi e lunghi, e non mi importa un cazzo, anche se ho paura. Io stavo ballando una richiesta, io ballavo una richiesta. Strada senza un'arma, non puntano alle gambe, mirano al dolore, sparano al cervello, ti lasciano svanire. Vuoi ordinare una canzone e scrivere poesie nel fiato dei banditi, un vizio d'Odissea, di Grecia e di anarchia, ma qui ballo ancora una richiesta, io ho una richiesta da ballare qui. Io ballo ancora una richiesta, io ho una richiesta da ballare. Lascio tre guardie stese in terra, ho in mano lo stiletto che ha difeso il tempo di restare sola, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone, tempo del mio rispetto, tempo di una canzone, tempo del mio rispetto. Io stavo ballando una richiesta, io ballavo una richiesta, io stavo ballando una richiesta, io ballavo una richiesta. Cosa che mi ha sempre colpito nella tradizione popolare, che nella scrittura, nell'uso delle parole, non si ha mai paura di esagerare. forse farei meglio a dire non si aveva. Nelle scritture popolari antiche i sentimenti più semplici vengono raccontati come cose enormi, no? Come questioni di vita o di morte. Poi a un certo punto siamo diventati tutti più smaliziati, no? Per cui abbiamo cominciato col volerci liberare del peso delle parole e poi abbiamo perso anche il significato in qualche modo delle parole. Per arrivare a questo cinismo da teste di cazzo che scrivono canzoni d'amore nelle loro camerette. E farebbero anche bene a tenersi a casa. E invece... invece nella scrittura popolare il peso delle parole è importante e più i sentimenti sono forti, più le parole devono essere forti, senza avere paura. Questa è una canzone d'amore. Ciao di vista non ci fu che fare. L'amore e l'ampo e tu sono un dolore. S'avesse pace non volesse avere. Se fosse sciolto non avesse un nere. C'era un inferno non da resecare. Ogni spartenza che può comandare. Sogno attaccato con nervurini. Quando te viste non ci fu che fare. Ciao di vista non ci fu che fare. Ciao di vista non ci fu che fare. Thank you. ne fare reste voce davanti. Oste da cago da sta l'oponente. Eve moscante attacchi celerenti. Eve moscante attacchi celerenti. Ai na na na. Ai na na na na na. Ai na na. Dicevamo prima all'inizio del, anzi a fine intervista, parlavamo lo fuiuto, no? del matto, di questa carta che sfugge sempre e che cambia il corso della giocata. Tra l'altro nei tarocchi siciliani, che non hanno almeno apparentemente una grossa tradizione esoterica, cosa che comunque non è vera, il ruolo del dofuyuto, del matto, è assolutamente identico sia nella divinazione che durante il gioco. Cambia tutto, a patto appunto di saperlo giocare. Ufuyuto se ne esce che fa? Barabá, barabá, o fuego se me llegó a se ne esce che fa. Allo tempo l'operatore ne esce torto e se fa ragione. Parabà, parabà, o fuori o se ne esce che fa. Parabà, parabà, o fuori o se ne esce che fa. Costanza e sprezza quieta, savo legno e se sta muta, parabà, parabà, un fogliotto se dice che fa, parabà, parabà, un fogliotto se dice che fa. Temperanza, già mi scasete, cuore manse, un fuori niente. Se invece che fa la valea cambia lo forno e la femmina che smuovo perno parabà parabà un fogliotto se invece che fa parabà parabà un fogliotto se invece che fa. La giustizia non la conosce, quando già sei e quando nesce. Parabà, parabà, un fogliotto se nesce che fa. Parabà, parabà, un fogliotto se nesce che fa. E l'amore non nego niente, sono l'ossa e ammolerente. Se invece che fa, parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Carrettere, caporte, carro, che ancora la vede sgarro. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa, parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Peso porta vergogna, con la prende se la sparagna. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Eremita, catene, lampa, conoscenza meno da norma. Se invece che fa, parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. È la morte che scippa d'este, la più grande delle tue feste. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Porta steve l'agnoto, lo serio fa terremoto. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Veni stella e rida l'ora, te ricorda che mamma cara. Se invece che fa, parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Una porta letto e riposo, sulla chiorna quando mi soso. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Parabà, parabà, un fogliotto se invece che fa. Atlante, volta di cielo, veni ole che passi pieno. Parabà, parabà, se invece che fa, un foglio di se invece che fa. Grazie. Grazie per avermi ascoltato, grazie alla Polveriera per avermi invitato qui stasera, è stato davvero un piacere. Alla prossima. Sogno uno, insomma. Ce la facciamo. Spente, fiumi di lava fredda e nera, venuta a di fino al mare, che lacera la pelle e cela in ogni cavo un fiore d'ossa rotte. Con te ho provato a declinare il nome, stava in fondo ai graffi nei tuoi occhi, fra tra case popolari e specchi, la tua smorfia di coraggio, un regno dietro una saracinesca, un regno sconcio quanto un'altalena. Ho chiesto al corvo sul tuo seno, gli ho chiesto ancora una volta, dimmi chi sono, non dirmi quel che ero. Accanto la tosse che si rompe contro i muri, e un uomo resta una parola confusa ai rovi degli incroci, è pronunciata poche volte, pronunciata sempre a bassa voce. Sorveglianti hanno serrato i ferri, mi prendo i morsi della tua bellezza, lasciami i segni sulla schiena, finisci adagio come i passi lungo le scale che gli amanti scendono adagio prima di partire. Ho chiesto al corpo sul tuo seno, e ho chiesto ancora una volta, dimmi chi sono, non dirmi quel che ero. Ho chiesto al corpo sul tuo seno, e ho chiesto ancora una volta, dimmi chi sono, non dirmi quel che ero. Non dirmi quel che ero. Non dirmi quel che ero. Grazie. Bene così. Si porta una birra e si porta. No, no. Come se avessi accettato. Grazie mille. Un altro applauso. Evviva. Allora, per stasera abbiamo finito con le iniziative, però il Festival della Letteratura Sociale non è ancora finito. Abbiamo ancora domani e dopodomani. Domani dalle 15 in poi ancora tante iniziative. Viva, grazie a tutti. Thank you.